Ehi, biscottino, cosa fai tutto solo? Biscottino, puccia puccia il biscottino, omino biscottino, puccia puccia il biscottino, puccia puccia il biscottino, omino biscottino, puccia puccia, puccia puccia. Ormai la star. Biscottino, omino biscottino, puccia puccia, puccia puccia, puccia il biscottino, puccia puccia il biscottino, omino biscottino, puccia puccia il biscottino, puccia puccia, puccia puccia, puccia puccia, puccia puccia, puccia puccia, puccia puccia, puccia puccia, puccia il biscottino. E dai, puccia!